quelli onesti l'età. Chi taglia le orecchie, chi arraffa, chi pensa per sé. La droga infine venduta come il caffè. Per fortuna abbiamo un cielo azzurro ed estate un sole d'oro, i due bronzi di Riace, gli spaghetti e il pomodoro, l'olio vergine extra fino e poi il carattere latino come il nostro. Chi ce l'ha? Per fortuna abbiamo il toto calcio, i toti pellina lotto, il coraggio di un ragazzo che va a fare il poliziotto e che rischia di morire per due miserande lire che ogni mese lo Stato gli dà. Mediterraneo, verde stivale nel blu, su Sveglia d'Italia, perché dormire di più? Ti sei accovacciata qui sulle rive del mare, ma se avrai fede l'amore ti salverà. Per fortuna abbiamo un cielo azzurro ed estate, con il Milan e la Roma, il torrone col Pandoro, Giotto e i suoi capolavori, le baracche di Pozzuoli, chi mai più le toglierà. Per fortuna abbiamo città belle, con famosi monumenti, ma i problemi da affrontare sono tanti, sono urgenti, le pensioni e gli stipendi, l'inflazione e le